Siamo con Roberto Proia di Eagle Pictures per parlare di Papillon di Michael Noir in uscita in sala il 27 giugno. Roberto, ben trovato. Ciao, ciao ragazzi. Lo raccontiamo brevemente? Sì, Papillon è la storia vera, è tratto da un libro innanzitutto che ha già dato vita ad un film del 1973, famosissimo, con Steve McQueen e Dustin Hoffman, ed è la storia vera di quest'uomo ingiustamente accusato di omicidio, che viene incarcerato e passerà la sua intera esistenza a scappare dalla colonia della Guyana francese, dove appunto è stato incarcerato, e poi subito dopo dall'Isola del Diavolo. Il film segue le vicissitudini di quest'uomo interpretato da Charlie Hunnam, che ci mette credo, insieme a 15 anni per riuscire ad evadere dalla prigione dalla quale non è mai evaso nessuno. Il film è molto molto toccante perché appunto, ripeto, è una storia vera e il vero Papillon alla fine non solo è riuscito ad evadere, ma è riuscito anche a riabilitare il suo nome, quindi è una bellissima storia. Oh, Roberto, di fronte all'opera letteraria e anche a questo precedente cinematografico importante, com'è il risultato secondo te? Diciamo, sono stato in grado di modernizzarlo rimanendo comunque fedele allo spirito del romanzo e del film che appunto ne era stato tratto. La variazione più evidente di questa nuova versione è una maggiore attenzione all'umanità di Papillon, cioè comunque lui è sempre un tipo molto in gamba, molto smart che se la cava sempre in tutte le situazioni, ma che a un certo punto cede, come cederebbe qualsiasi uomo. Uno è un supereroe, è un uomo che era fidanzato, stava per sposarsi e che perde tutto nell'arco di una notte per un errore giudiziario. Questo, come dire, questo elemento molto forte che poi fa scaturire la vendetta viene vissuto in prima persona da Papillon anche in maniera molto fragile. Questa cosa qui è molto bella, secondo me, è molto segno dei tempi. Michael Noir, come lo conosciamo in Italia? Ma in realtà lui fa parte di questa new wave scandinava che ci ha dato grandi soddisfazioni ultimamente. Basti pensare a Land of Mine, perché è un film molto molto bello dell'anno scorso. Diciamo che io avevo qualche dubbio su di lui, perché appunto non avevamo visto neanche il suo, ma e poi comunque andava ad affrontare un materiale così fortemente radicato nella cultura cinefila mondiale. Insomma, è stata un'operazione, diciamo, da parte sua molto ambiziosa, ma in realtà è cavata egregiamente proprio perché ha saputo dare un'impronta personale ad una storia arcinota. Sì. Senti, all'estero che risultati ha avuto? Siamo il primo paese Ah, al mondo a ok. distribuirlo. L'America distribuirà il film a fine agosto, quindi siamo quelli che è già successo altre volte con Isola Mezzanotte, in cui Eagle si fa portavoce e guida il resto dei paesi nell'uscita del film, quindi non l'hanno ancora visto nessuno. Siamo i primi al mondo. Che uscita sarà il 27? Sono 310 copie, diciamo divise equamente tra multiplex e sale cittadine. Comunque questo è un film che va bene per un target grande, dai 40 in su, di gente che si ricorda il primo film, ma la tematica alta della libertà, superiore, eccetera, lo rende abbastanza universale anche per un pubblico giovane, calcolando chi i due protagonisti sono protagonisti di serie molto amate dai giovani, ovvero Charlie Hunnam di Sons of Anarchy e Rami Malek di Mr. Robot e prossimamente Freddie Mercury. Diciamo che il target è abbastanza ampio. Benissimo, ricordiamo l'uscita di Papillon di Michael Noir in uscita in sala il 27 giugno. Un ringraziamento e un saluto a Roberto Proia di Eagle Pictures che Grazie lo distribuisce. Roberto, a presto. a voi. Grazie mille ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ciao.